Der Maria Soledad Rosas, anarchica, suicidata della società. Sei la poesia del mondo che si ritira dal mondo. Muri innalzati a respingere l'onda normale, globale e criminale dell'indeformazione che tutto immerda. Terminale sfiducia nella parola. Ogni parola è menzogna. Pensare in forma di parola è menzogna. Rifiutarsi di parlare, rifiutarsi di comunicare, rifiutarsi di dialogare, assolutamente separarsi dalla società della logorrea spettacolo, del talk show permanente, frivola merce chiacchiera vomitata sul dolore inesprimibile dell'uomo, a far profitto e osceno coro di canaglie. Fascista è la costrizione a dire che non c'è più nulla da dire, nessuna libertà nella parola, dunque soltanto la mutezza può esserti cara compagna verso la salvezza. Soli di solitudine, sfavillante caldo nel viaggio aritroso dalle Ande alle Alpi. In fotogramma Maria Argentina col capo raso un po' inclinato, gli occhi grandi, scuri e seri, due brillantini ai lobi delle orecchie, ai l'aria imbronciata e grigia di un androgeno in tuta felpa che si chiede: ma io che ci faccio in questo posto alieno? L'aria da orgogliosa martire o temibile strega di René Falconetti, Giovanna d'Arco. Senti le voci di altrove, fibrilla nel tuo corpo che non si piega, la pura mistica di chi rinunzia, di chi abbandona comunità e famiglia. Cripto segnali di chi, volendo l'essere, si fa straniero all'esserci, di chi ha deciso comunque, insalutato ospite, che se ne va. Ventiquattro anni di solitarietà, Maria che respiri bave d'aria della sera, profumo di griglio e di marcita. Sei l'onirica implacabile sentinella che ci accusa, poi travolta e stritolata dai carri armati della impossibile felicità. Compagni squatters e guerrieri della dopa incendiano la notte. Blackout, la radio batte il tam tam dell'odio inevitabile. Assassini tutti! E i punks a bestia scatenano la caccia ai gazzettieri infami. Barricate di memoria storica nel presente ora e sempre di rivolta per le tribù autonome che strizzano le chiappe al colto e all'inclita, alla città che consuma, governa, sinistra positiva, come l'AIDS. I Digos e Caramba arrestano, i giudici giudicano, i politici politicano, gli industriali industriano, gli opinionisti opinano e i preti assolvono. Così, così è la combutta sistemica e anatemica degli zombie vincenti. Sei morta, Maria, perché l'oblio dei mass media non cada su noi perdenti e resistenti. Spento nell'impicco a un tubo arido di rugginosa doccia, nella cascina persa nel verde cuneese, ponte di campagna per il tuo salto verso una olistica libertà. Nella tenebra a lungo a spenzolare secondo un ispirato mantra, suono visione che si scioglie nella panica verità. Solfeggio oramai post bellico della più estremista e ardente vetero umanità. Sole. Vai incontro alla tua definitiva estate, mente corpo bomba che implode sulla sua inafferrabile sensibilità. Diversità di donna e parossismo di creatura senza futuro, debolezza che si fa blindata fortezza d'animo, fragile sembiante, dentro inattaccabile come limpido diamante. Illuminati dall'ostilità della tua solitudine, ti riconosciamo come un'antica poesia. Il tuo smagliante stile in uscita non è piccola tattica di animale, messaggio disperato, bensì per catartica afasia dell'istinto per il sogno, la più grandiosa strategia. Ti amiamo solo.